Di fronte alla borsa qualche volta, cara Nicoletta, dobbiamo turarci il naso e quindi lo dobbiamo soffiare. Certo, e metto le mani lì. Anch'io lo faccio. La pancia borbotta, sed panciam borbottam, non so. Ho un girovita che ci vuole la terra metrica. E il tema natiche, però mettetemi la mano sul fuoco, sì sul fuoco, sul cuore, ma sul fuoco non ce la metto, che me la mettiate. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Noi torniamo a parlare di celiachia. Lo spunto ci viene offerto da un recente studio italiano che ha disegnato una nuova mappa mondiale della patologia, la cui incidenza nell'ultimo quarto di secolo è aumentata di 5 volte, soprattutto in età pediatrica. 2 sono essenzialmente gli aspetti su cui vogliamo focalizzarci oggi: l'importanza della diagnosi, molto spesso arriva tardi o non arriva del tutto, nei bambini ci sono dei sintomi più chiari che guidano il medico a sospettare questa intolleranza, ma nonostante ciò molti casi non vengono intercettate, e questo è ancora più frequente negli adulti, in cui la malattia si presenta con un quadro molto più subdolo. Il professor Carlo Catassi, professore di pediatria dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona e presidente della Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica, ci aiuterà a vederci più chiaro, ma con il nostro esperto parleremo anche di un disturbo relativamente nuovo che presenta sintomi simili a quelli della celiachia, ma senza causare una risposta, direi, sul piano immunologico e senza quindi danni alla mucosa intestinale. È la sensibilità al glutine, che si presume essere più frequente della celiachia e di cui parleremo nel corso della trasmissione. Ma la puntata di oggi si rivolge anche a chi, pur non essendo celiaco, si è convertito un po' per moda a una dieta senza glutine, attirato dall'idea di perdere qualche chilo, e magari qualcuno la sta seguendo per arrivare magro e un po' sfilatino alle vacanze. Chissà se ci è riuscito. Ma non lo sappiamo. Comunque, mi hai dato un assist perfetto. Parliamo di vacanze, ne parleremo nella seconda parte del programma, parleremo particolarmente degli strumenti di pagamento da portare con noi. D'altronde si sa, di denaro in vacanza ne serve se ce la vogliamo godere al meglio e se possiamo farlo naturalmente, ma spesso prima di partire e soprattutto se si va all'estero ci assalgono 1000 dubbi. Di quanto contante avrò bisogno? Me la porto la carta di credito e se poi me la rubano? Forse meglio una prepagata, ma come funziona? Voi dove andrete e come? Di conseguenza pensate di muovervi? 800 24 00 24. La che? No, non lo so. No, proprio niente, no, no. Mi spiace. Deve essere un'intolleranza al glutine, se non erro. Penso che pane, pizza, pasta normale non si può mangiare. È una malattia di solito sorge con i bambini. Ed è, se non sbaglio, l'allergia alla farina, farinacei, al grano. Una malattia genetica, però non sono sicuro. Ci sono prodotti apposta senza glutine che vendono credo in farmacia. Professor Catassi, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Abbiamo sentito una vox populi, chiamiamola così, sulla celiachia. C'è chi nonostante tutto non ne ha mai sentito parlare, c'è chi un'idea più o meno se l'è fatta, chi la conosce per aver visto nei supermercati e in farmacia prodotti destinati ai celiaci. Intolleranza, allergia, malattia genetica. Professor Catassi, chi è andato più vicino? Ma direi certamente chi l'ha definita come malattia genetica. In realtà questo è un termine un po' forte, diciamo che è una patologia nella quale una predisposizione genetica è fondamentale. Naturalmente è anche un'intolleranza, perché con il termine di intolleranza noi medici intendiamo tutte quelle condizioni in cui non si riesce a tollerare un alimento che viene introdotto con la dieta di tutti i giorni. Quindi in senso ampio diciamo è un'intolleranza. direi che la risposta meno corretta è quella dell'allergia. Mm-hmm. In realtà allergia identifica un gruppo di patologie un po' diverso da quelle della celiachia. 800 24 00 24 se volete parlarne con noi, se volete raccontarci la vostra storia, se avete scoperto di essere celiaci, se invece sospettate di essere sensibili, di avere una sensibilità al glutine. I messaggi naturalmente potete inviarli come sempre al 349-238-6666 e potete seguirci su Facebook e su Twitter. Ma professor Catassi, noi possiamo paragonare il glutine ad una miccia che infiamma l'intestino e il nostro sistema immunitario da difensivo si trasforma in aggressivo? Direi che è un quadro che risponde esattamente a quella che è la situazione della celiachia, e cioè una patologia di tipo autoimmunitario, come ne sono altre, tipo il diabete giovanile, tipo alcune patologie della tiroide, tipo l'artrite reumatoide, cioè patologie nelle quali esiste una componente ambientale, in questo caso è l'alimentazione, l'assunzione di glutine con gli alimenti, e questa predisposizione dell'individuo per cui questo nutriente, che nel soggetto normale, diciamo così, non determina questo tipo di reazione, in realtà nei soggetti geneticamente predisposti si trasforma appunto in una miccia che può determinare una reazione di autoaggressione, cioè il soggetto che comincia a produrre degli anticorpi e dei linfociti che attaccano i propri tessuti. Questa è la situazione della celiachia. Tra i primi tessuti attaccati naturalmente c'è l'intestino, mm-hmm, che è l'organo bersaglio. Professor Catassi, noi siamo ritornate a parlare di celiachia perché naturalmente ci lasciamo stuzzicare anche dalle notizie di cronaca che troviamo, e abbiamo raccolto sostanzialmente l'allarme di un recente studio italiano secondo cui la celiachia è aumentata di ben 5 volte fra i bambini di tutto il mondo. È così? E che cosa può aver determinato questa impennata? Ma guardi, sicuramente il dato è reale e vorrei dire anche più accentuato se consideriamo il numero di diagnosi che noi facevamo di celiachia qualche anno fa, intendo dire ad esempio 20-30 anni fa. Certamente il numero di casi è aumentato sia nei bambini, ma vorrei dire anche in età adulta, e diciamo è fondamentalmente questo aumento spiegato da due situazioni. Da una parte è un aumento nel numero di diagnosi e quindi non è un vero e proprio incremento della casistica, è una maggior capacità di riconoscere i casi che eventualmente esistevano anche in passato. Questo oggi è possibile grazie a test diagnostici più accurati che noi abbiamo a disposizione, quindi possiamo riconoscere la celiachia più facilmente di quanto non facevamo in passato. Ma in realtà vi è stato anche un aumento effettivo nella frequenza di questa patologia, e in questo caso evidentemente non possiamo che pensare che siano componenti di natura ambientale aver determinato questo aumento, perché certamente la genetica della popolazione non è cambiata nell'arco di pochi anni. A questo proposito si possono però solo fare delle ipotesi. Sono cambiati i grani che noi utilizziamo per l'alimentazione attuale, certamente questo è vero in parte, è cambiata la modalità di preparazione dell'impasto panificatorio, anche questo è vero, insomma sono cambiate tante cose che probabilmente hanno avuto un impatto nella frequenza della celiachia. Professore, un ascoltatore al 349-238-6666 chiede se esiste una relazione tra incidenza della celiachia ed esposizione ai fitofarmaci usati in agricoltura, e chiede se il biologico potrebbe aiutare. Ma su questo aspetto specifico non abbiamo dei dati da poter incolpare i fitofarmaci, come pure tanti altri additivi che si vengono ad aggiungere nella filiera produttiva, ma certamente la ricerca deve analizzare tutte le possibilità, compresa questa sollevata dall'ascoltatore, perché se qualcosa è cambiato negli anni più recenti nella frequenza di questa patologia, evidentemente tutti gli aspetti che si sono modificati nella filiera produttiva del grano e dei prodotti panificatori deve essere valutata. Professore, la celiachia per lungo tempo è stata considerata una malattia esclusivamente pediatrica, poi nel tempo si è scoperto che poteva interessare anche gli adulti, di cui parleremo tra poco. Ma fermiamoci ai bambini: diarrea, arresto della crescita, l'introduzione del glutine, perdita di peso. Queste sembrano sintomi molto chiari, eppure, professor Catassi, la realtà è molto più complessa. Ci vuole aiutare, anzi vuole aiutare le mamme e i papà all'ascolto a individuare dei segnali che potrebbero essere spia di una celiachia in un bambino certamente, piccolo? Grazie. Certamente, i sintomi che lei ricordava sono i sintomi che noi definiamo tipici della celiachia, e questi sono anche i sintomi che spesso portano il bambino dal pediatra, che naturalmente sarà in grado di suggerire l'approfondimento diagnostico del caso. Bambino con diarrea cronica, il bambino con il pancione, l'addome globoso, diciamo noi medici, l'appetito che se ne va, e soprattutto la perdita di peso. È chiaramente un bambino che perde peso è un bambino che merita un'attenzione specifica. Diciamo che questi sono i casi che più spesso arrivano facilmente alla diagnosi. Sì. Poi però ci sono una marea, vorrei dire, di casi che sfuggono alla diagnosi perché presentano dei sintomi molto meno caratteristici, e quindi non sempre la famiglia porta il bambino dal pediatra e non sempre il pediatra poi pensa alla possibile celiachia come causa del disturbo. E allora effettivamente, come lei diceva, è il caso di ricordare quali possono essere questi campanelli di allarme. E allora io direi: una situazione di anemia, un bambino pallido, un bambino che abbia un'anemia, soprattutto se si rivela un'anemia da carenza di ferro, sì, perché il ferro non viene più assorbito correttamente se vi è un malassorbimento. Un bambino che presenti una stanchezza cronica, anche questo è un dato molto significativo. Un bambino che presenti ad esempio una situazione di dolore addominale ricorrente, classico mal di pancia che ogni tanto viene fuori, oppure anche un bambino che presenti un disturbo intestinale cronico più generico, ad esempio una stitichezza. Diciamo che ecco, le situazioni sono tante, l'importante è che vi sia una facilità da parte del pediatra di richiedere gli esami diagnostici, perché mentre il quadro clinico può essere molto variabile, cioè la presentazione, come dicevo, può essere molto variabile e talvolta addirittura silente, cioè con una assenza di sintomi clinici, bene, l'esame di sangue è molto sensibile, quindi al minimo sospetto eseguire gli appropriati esami diagnostici. Esatto, che possono essere fatti in qualsiasi laboratorio di analisi. Allora, abbiamo un ascoltatore da Barletta, Antonio, pronto ad intervenire. Prima però, professor Catassi, le volevo chiedere, i celiaci, i bambini celiaci sono generalmente figli di genitori celiaci? Le inverto l'ordine dei fattori nella domanda. I figli di genitori celiaci, che probabilità hanno di essere intolleranti al glutine? Dunque, diciamo che in ambito di familiarità stretta, e quindi familiari di primo grado sono i figli, sono i genitori, sono i fratelli e le sorelle, il rischio di ricorrenza della celiachia è del 10-15%, quindi non possiamo considerare la celiachia come una patologia strettamente genetica, cioè che segua dei canoni genetici molto stretti. C'è una predisposizione genetica che va valutata appunto nel 10-15%, il che significa comunque una discreta frequenza, ed ad esempio i familiari di un soggetto celiaco, che sia bambino o adulto, in realtà devono fare uno screening, cioè un esame a tappeto per la celiachia, perché possono avere questa situazione. Quindi chiediamo anche alle persone che ci stanno ascoltando, che hanno scoperto magari tardivamente di essere celiaca, se i loro familiari hanno poi fatto le indagini a cui il professor Catassi si riferiva. Allora, avevamo un appuntamento, Deborah, con un uomo. Certo. Da Barletta. E ci piace andare in Puglia. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuto. Grazie. Volevo chiedervi una cortesia. Io praticamente da un annetto e mezzo ho diarree molto frequenti e stanchezza cronica, difficoltà anche durante il sonno. volevo chiedere al dottore, siccome stavo ascoltando anche la trasmissione, mi sembrava fossero queste sì, i segnali. Alcuni di questi segnali il professor Catassi li ha appunto espressi nel stimolare i genitori che, se hanno dei bambini con pallore, magari con carenza di ferro, la stanchezza cronica, dolori addominali, stitichezza, di effettuare un'indagine. Questi segnali, professor Catassi, valgono anche per gli adulti e quindi anche per Antonio che ci chiama da Barletta? Certamente sì, perché i sintomi che ha descritto l'ascoltatore sono direi abbastanza caratteristici di una possibile celiachia in età adulta. Naturalmente non tutti i casi di certo, diarrea ricorrente sono spiegati da una celiachia, ci sono tante altre condizioni che la possono determinare, anche un banale, tra virgolette, situazione di colon irritabile. Però di fronte a un sintomo come questo in un adulto vale senz'altro la pena di fare la ricerca degli anticorpi tipici della celiachia, cioè quell'esame di sangue che dicevo prima può permettere una diagnosi. Vorrei sottolineare che il sintomo stanchezza cronica è abbastanza caratteristico della celiachia, ma può far pensare anche a quella situazione cui voi avete accennato prima e che poi descriveremo, di sensibilità al glutine, perché diarrea cronica o ricorrente associata a stanchezza cronica e magari anche a cefalea, quindi chiederei al signor Antonio se per caso ha anche questo disturbo, potrebbero indicare una situazione di sensibilità al glutine che è diversa, come diremo, dalla celiachia. È un po' una sorta di cugina della celiachia, la sensibilità al glutine. Esatto. Vogliamo fare un po' delle parentele. Esatto. 800240024, vorrei leggerle un messaggio che arriva da un'ascoltatrice che ci scrive: sono celiaca da una decina di anni, evidentemente ha scoperto di essere celiaca 10 anni fa. Non ci sono altri casi di celiachia in famiglia, ma sono presenti casi di vitiligine, ipertiroidismo, psoriasi. Allora l'ascoltatrice ci chiede: ma vengono dallo stesso ceppo tutte queste malattie? Professor Catassi, questa è una bellissima domanda. È vero, è una bellissima domanda. La risposta è in un certo senso affermativa, perché come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, la celiachia è una patologia di tipo autoimmune, il che significa che chi la sviluppa ha una predisposizione genetica a sviluppare appunto la celiachia, ma purtroppo anche quella di sviluppare eventualmente altre condizioni diciamo di tipo autoimmunitario, come lo sono per l'appunto tutte quelle che ricordava l'ascoltatrice. Naturalmente occorre anche dire che il riconoscimento precoce di una celiachia comporta il vantaggio che si possa azzerare o comunque ridurre al minimo il rischio di patologie associate, cioè instaurare un trattamento precoce della celiachia può comportare la prevenzione di altre eventuali patologie di tipo autoimmunitario che si possono associare nel tempo. Però in linea di massima questa tendenza ad associarsi delle patologie autoimmuni esiste. È per questo motivo che noi raccomandiamo ad esempio a tutti i nostri pazienti celiaci di controllare nel tempo la funzione della ghiandola tiroide, soprattutto alle femmine, soprattutto alle bambine in età peripuberale, alle ragazzine, perché una patologia associata di tipo tiroideo non è rarissima nel soggetto celiaco. Allora, continuiamo intanto ad esaminare le osservazioni e le domande che ci stanno arrivando da parte degli ascoltatori al 349-238-6666. Un ascoltatore chiede se l'infiammazione da glutine possa provocare problemi di natura mentale addirittura, quindi qua dovremmo esplorare probabilmente, come dire, un ambito un po' più complesso. Un altro ascoltatore invece o ascoltatrice ci racconta che si è reso conto di che mangiando farine derivati si sente perennemente gonfio, carenza da ferro, fatto gli esami per le celiachie, il risultato è stato negativo. Forse qua Nicoletta è il caso di cominciare ad introdurre il tema della sensibilità. Allora, che ha già anticipato il professor Catassi e di cui ci chiede anche l'ascoltatore, ma più che una sensibilità al glutine, l'ascoltatore ci chiede, professor Catassi, se esistono intolleranze al grano. Sì, Allora, andiamo con ordine. La prima domanda apre veramente un orizzonte enorme sul quale la ricerca oggi è molto attiva, cioè i rapporti tra glutine e possibili patologie della sfera neurologica o addirittura psichiatrica. Intanto occorre ricordare che la celiachia stessa può complicarsi con problematiche di tipo neurologico, ad esempio un'epilessia. Ora non vorrei però andare troppo nel tecnico, sì, ma vorrei invece sottolineare come una forma di sensibilità al glutine potrebbe avere una correlazione con alcuni sintomi, con alcuni aspetti, ad esempio di sindromi quali l'autismo infantile, quali addirittura la schizofrenia. Non abbiamo trovato la causa purtroppo di queste malattie così importanti e così impattanti nella popolazione, però vi sono delle ricerche in corso che denotano una possibile correlazione, quindi un tema estremamente interessante. Per quanto riguarda la seconda domanda, certamente ci porta a considerare sempre più questo tema della sensibilità al glutine, che è una forma di intolleranza al glutine di tipo non celiaco, mm-hmm, e quindi è un qualcosa che noi stiamo cominciando a riconoscere negli ultimi anni sempre più spesso. Tra l'altro è una diagnosi difficile in qualche modo, perché non abbiamo ancora un esame specifico che ci permette questa diagnosi, ma sospettiamo che, come voi dicevate all'inizio, sia una situazione assai frequente. L'intolleranza al grano, anche questa è una bellissima domanda, perché studi recentissimi indicano che non è soltanto il glutine la componente incriminata in tutte queste patologie che noi andiamo ricordando, ma vi sono anche altre componenti, sempre di tipo proteico come il glutine, ma anche di tipo non proteico, ad esempio dei polisaccaridi, cioè degli zuccheri, che presenti in grandi quantità nel grano e in altri alimenti possono essere alla base di sintomi intestinali. Quindi è vero, oggi noi discutiamo molto se parlare di intolleranza al glutine o intolleranza al frumento, perché in senso ampio anche questa situazione può verificarsi. Esatto. Cuore e denari. A proposito di soldi, avete pensato che cifra spenderete in queste vacanze al mare, in montagna o a passeggio per le città d'arte, mete esotiche? Come vi organizzate? Preferite pagare in contanti oppure con carta di credito o carta prepagata? Quando ancora non c'erano né carte né prepagate, si portavano i contanti addosso e nascosti nei posti più strani. Lo facevate anche voi? E noi continuiamo a parlare di celiachia e andiamo subito ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando, sì, da Lecce e da Piacenza. In linea con noi il professor Carlo Catassi. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per la chiamata. Quello che volevo chiedere al professore era la linea di demarcazione tra quello che possiamo chiamare un soggetto affetto da celiachia e invece quella che è la gluten sensitive. In parte già ha risposto un po' in questa domanda, non so se ritiene opportuno di definirla meglio. E poi l'altra cosa che volevo avere la sua opinione, invece, per quanto riguarda l'aspetto alimentare, a che punto è la ricerca di un eventuale enzima che consenta un domani di poter mangiare prodotti, diciamo, tradizionali senza dover ricorrere necessariamente a prodotti, ai prodotti senza glutine. Grazie Francesco. Professor Catassi? Sì, la demarcazione tra celiachia e sensibilità al glutine è netta e questo deve essere colto quando la persona pratica ancora una dieta libera. Ecco, noi raccomandiamo sempre, quando vi sia un sospetto di celiachia o di sensibilità al glutine, di non modificare la dieta, prima cosa fare gli esami, soprattutto la ricerca di anticorpi antitransglutaminasi che sono specifici della celiachia. Se questo test risulta positivo ci orienteremo verso una celiachia, se il test risulta negativo allora prenderemo in considerazione la sensibilità al glutine, per cui la demarcazione sta proprio nell'esito di questi test fondamentali e molto semplici. La ricerca sta facendo passi avanti sicuramente, in particolare quella che ricordava il signor Francesco, cioè di uno o più possibili enzimi che possano digerire il glutine già nello stomaco in modo che non arriva a innescare quella miccia come dicevamo prima. Diciamo che è una ricerca molto lunga, molto costosa, che avrà bisogno di tempi lunghi altrettanto per poter fornire dei risultati, ma credo che nell'arco certamente di alcuni anni si arriverà a delle novità, anche se chiaramente qualsiasi tipo di trattamento alternativo si deve confrontare con una cura come è la dieta senza glutine, che ha un'efficacia del 100%. Quindi perché sì, la dieta è terapia per una persona celiaca. Quindi l'asticella è molto alta, sì. Diciamo così, però la ricerca va avanti. Molte domande proprio sul tema alimentazione da parte dei nostri ascoltatori. Sentiamo Angela da Piacenza all'800240024. Angela, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Sì, ci dica. La mia domanda è questa, mi sono ritrovata 6 o 7 anni fa, ma molto lentamente, da non rendermene conto subito, ma un pochino nel tempo, un po' alla volta, che ogni volta che mangiavo poi avevo questa sonnolenza, questa stanchezza, questa mancanza di concentrazione. Faccio un esempio, io alle 2, alle 3 del pomeriggio avevo già finito tutte le mie scorte di energia, quindi una vita anche un po' difficile. Facendo poi delle prove, io provando a togliere determinati alimenti non risolvevo il problema. Fatta la prova appunto per la celiachia, anche questa non mi dava l'esito positivo, e quindi ho cominciato a mangiare alimenti senza glutine e lì ho cominciato a stare meglio. Sì. Però siccome non ero convinta di queste cose, facendo un viaggio un giorno in Sicilia ho avuto l'opportunità di assaggiare, sapevo che sarei stata poi male dopo, però ero in vacanza, ho provato ad assaggiare, sono anche molto golosa, anche noi, anche lo dice Angela. Questa fetta di torta, e ho visto che in realtà non mi faceva stare male, ero in un bed and breakfast che utilizzavano prodotti biologici. Il giorno dopo ho voluto rifare la prova, visto che non stavo male, ho approfondito, insomma, per farla breve, utilizzavano una farina particolarmente biologica, macinata a pietra con tante caratteristiche, e me ne sono portata a casa un po'. Da lì ho cominciato a farmi il pane, a utilizzare la loro pasta, e a distanza di un anno sto benissimo, ho risolto tutti i miei problemi di stanchezza, di energia ne ho tanta, ho avuto un miglioramento della pelle, la mia concentrazione è normale, e devo dire sono contentissima di aver fatto questa esperienza. Vogliamo tutti la farina magica di Angela. Anche la torta. Anche la torta. Professor Catassi, una storia lieto fine, no? Una sostituzione che ha portato benessere ad Angela. E questa è la cosa più importante, cioè il fatto che la persona, il paziente, possa star meglio, per noi è il risultato auspicato, diciamo così. Certo, la storia che ha descritto la signora Angela è un po' atipica, cioè non caratteristica, ma io la interpreterei, alla luce di quello che ci ha raccontato, come una storia di sensibilità al glutine che poi si è risolta nel tempo. In effetti questa è un'altra differenza importante tra celiachia e sensibilità al glutine, e cioè quella che la celiachia dura tutta la vita. Sì. E questo forse è l'aspetto che pesa maggiormente alla famiglia, al bambino, al paziente in genere. La sensibilità al glutine invece è un disturbo che può cominciare, avere un suo percorso, ma può anche finire spontaneamente e quindi risolversi. Con tutto questo, naturalmente, utilizzare farine di buona qualità e possibilmente biologiche certamente è preferibile, su questo non si discute, però diciamo che sia la farina biologica che una farina meno biologica, però entrambe contengono glutine e quindi interpretano la risoluzione dei sintomi come possibilmente una risoluzione del quadro di sensibilità al glutine. Con Castro Giovanni. È vero, un aspetto un po' particolare, ma quando scendo in campo gli avversari non vedono quello. Vedono uno che mette tutto se stesso. In ogni placaggio, in ogni meta, in ogni mischia. Abbiamo l'ospitone a cuore denario, naturalmente. Un testimonial di tante cose positive, naturalmente anche di questo piccolo problema. Ecco, in linea con lui, Martin Castro Giovanni, di mestiere fa il pilone, ma sarebbe più giusto dire che è il pilastro del rugby mondiale, non solo azzurro. Ciao e benvenuto. Ciao, buona giornata. Buongiorno, ciao. Castro, ti chiamo come fanno tutti i tifosi, sì, perché anche noi qui a Cuore Denari abbiamo una passione per i rugbisti, devo dire anche per i rugby, ma per i rugbisti un po' di più. Sì, va sì, bene, sì. Comunque, oggi stiamo parlando di celiachia e tu hai scoperto di essere celiaco nel 2011, ma ci sono voluti circa 10 anni per arrivare alla diagnosi. Qual è stato il campanello d'allarme che ti ha spinto a cercare un po' il colpevole? Guarda, io sono arrivato in Italia più o meno nel 2001. Sì. E lì ho fatto quell'anno lì mi hanno fatto fare le intolleranze, il test delle intolleranze, quello semplice, sì, quello che ti toccano la pelle con diversi quello che era il pane, tutte queste cose, sì, e mi ha detto che io ero intollerante al glutine. Uh-huh. Ovviamente testardo da ragrista, non ho fatto mangiavi non ho dato ragione stesso a questo test. E dopo penso 5-6 anni ho cominciato ad avere questo la pelle che mi tira un tipo di psoriasi, infatti mi dicevano che era psoriasi perché era sempre vicino al match, ma dopo col tempo ho capito che era ovviamente vicino al match, perché io vicino al mangio uno mangia più carboidrati, nel senso più pasta, più pane, sì, per il giorno prima, 2 giorni prima della partita. Finché un giorno in Inghilterra, verso il 2011, questa psoriasi, questo tipo di psoriasi, sì, che non era psoriasi, è peggiorata tanto. Ho perso quasi 10 kg, ero sempre stanco, non avevo forza quando andavo in palestra, così. Mi hanno fatto le analisi del sangue e mi hanno detto che ero celiaco. Prima mi hanno preso un pezzo di pelle per vedere cos'era questo problema alla pelle, mi hanno detto guarda che forse sei celiaco, ho fatto le analisi di sangue ed ero fino alla testa intollerante al glutine. Purtroppo per non aver sentito il dottore 10 anni fa, il mio corpo da intollerante è passato a essere allergico al glutine. Martin, senti, ma adesso tu segui una dieta senza glutine? Sì, ovviamente, nel senso il problema appena mangio qualcosa che non va, soprattutto mi capita in ristoranti, così, perché vabbè che adesso grazie a Dio nell'ultimo periodo tutto il mondo sa cosa è la celiachia, c'hanno comunque già le pentole a parte tutto, ma prima ti dicevi sei celiaco, ti facevano la pasta del celiaco, forse in una pentola dove avevano fatto la pasta o nella stessa acqua, certo, ed era lo stesso, allora io mi sento, non ho, sono diversi gradi di celiachia, nel senso c'è gente che veramente sta male, io ho mal di stomaco e per 2 o 3 giorni ho mal di stomaco, mi sento un po' stanco, però, però bene o male comunque la sento, appena c'ho qualcosa che ha il glutine di sicuro avverti, riconosce, allora, però lo sento subito. Possiamo fermarci un attimo e andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, ritorniamo subito dopo e poi passiamo naturalmente, salutiamo il professor Catassi con un commento e il nostro grande ospite e poi diamo subito la parola a Deborah per il secondo tema per di le vacanze, attenzione denari, naturalmente a quello che mangiate se siete celiaci, ma soprattutto bisogna capire cosa portarsi dietro, carta di credito, contanti, chissà. Cuore e denari. Un grande sportivo, un grande medico a Cuore Denari per le battute finali riguardo alla celiachia e anche alla sensibilità al glutine. Il professor Catassi, ha sentito la storia di Castro? Sì. Intanto saluto questo grande sportivo. E se è ancora in diretta. Sì, è ancora con noi. E direi che ci permette di chiudere questa trasmissione, questo intervento con alcune note molto positive, e cioè intanto la celiachia non impedisce alla persona di raggiungere prestazioni di livello fisico, mentale, di qualsiasi genere, di altissimo livello, e certamente Martin ne è la testimonianza diretta. Ci dice anche lo sportivo che si può convivere con una dieta senza glutine senza troppe difficoltà, perché ormai in effetti la cultura del senza glutine si è diffusa, in particolare nel nostro paese, in Europa, nel Nord America, anche in Sud America. Certamente si può migliorare, però oggi è possibile fare sport ad altissimo livello, è possibile fare tantissime cose sapendo che un celiaco troverà sempre un alimento adatto per lui. È importante anche che il paziente si istruisca sull'alimentazione, perché l'autogestione di certo. questo problema è certamente la chiave a una convivenza con la dieta senza glutine ideale. Vorrei chiedere al nostro Castro, ormai lo chiamiamo così, un consiglio ai genitori che hanno magari dei bambini che hanno scoperto di essere celiaci e decidono di fare sport. Insomma, un augurio da parte tua. No, guarda, io penso che non cambia niente, nel senso si fa una dieta, come ha detto il dottore, si fa una dieta forse un pochettino diversa, ma grazie a Dio oggi come oggi trovi anche, per dirti, per uno come me che le piacciono i dolci, trovi anche sì. i dolci, nel senso sì. c'è di tutto. Forse 15 anni fa era un problema. Adesso, ma oggi come oggi penso che nascono proprio comunque delle pasticcerie. Noi pensa che abbiamo delle amiche che ci ascoltano che hanno una pasticceria e ci hanno mandato i dolci, ricordiamo, tutte quante con le formine di omini qua a Milano, ottima. E poi c'è esatto. il sito www.celiachia.it dove si trovano davvero tutte le informazioni. E poi volevo anche luoghi. aggiungere, come ti raccontavo prima a microfoni spenti, Nicoletta, io non sono celiaca, ho altri problemi con altri alimenti, un po' di sensibilità, ma non appena tu rifiuti, che ne so, in un ristorante di mangiare l'antipasto che mangiano tutti, eccetera, hai subito due o tre camerieri che ti vengono addosso e che ti chiedono che cos'altro possono portarti, per cui non è più niente di così strano, appunto, dover gestire anche in luoghi pubblici questa problematica. Allora, ringraziamo i nostri ospiti. Martin Castrogiovanni, grazie per essere stato con noi. Grazie, buone vacanze, Martin. Vacanze, magari. Ormai magari, adesso si allena, vacanze, magari, con il Tolone, giù. Bravo, bravo. E naturalmente il professor Catassi per essere stato con noi, per la sua chiarezza e per la sua chiarezza rassicurante, vero, devo dire. Vero, grazie, vedi un marchigiano doc, professore. Ancora siamo tutti così, professore. Cosa ci vogliamo fare? Grazie e buone vacanze anche a lei, se ci andrà presto. Grazie, grazie a tutti voi. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare. Ecco, non è questo il tema che approfondiamo, è il colore. Però del posteriore in vacanza. Può decidere. Allora, le vacanze sono uno dei temi che abbiamo affrontato, come si fa sempre in questa stagione, più di frequente nelle ultime settimane. Abbiamo scandagliato un po' tutte le tematiche tipiche di questo periodo, le mete prescelte, il budget di spesa, suggerimenti per vacanze low cost. Oggi ci focalizziamo sugli strumenti di pagamento più adeguati da portare con noi a seconda della meta scelta. Contanti o carte, assegni o travel check, io pensavo che neanche esistessero più e invece ancora vengono utilizzati. Come no, sì. E se la destinazione è particolarmente distante, la moneta è quella locale, facciamo il cambio in Italia o sul posto? 800 24 00 24 è il numero verde da comporre per le vostre domande, per esporci i vostri dubbi su questo tema. Tu che fai? Beh, io striscio la carta, che è una bellezza, cara mia, però cerco allora vengo in vacanza con te. Guarda, prende fuoco quando sto in giro. Tu che fai invece? Io no, porto la carta e poi soprattutto cerco di non girare con troppi soldi. Non è che ne ho tanti, sì, però. Però addosso, perché io sono della generazione in cui quando partivamo le mamme ci dicevano portateli, no, mettiteli. Sì. Allora abbiamo avuto pancerine con i soldi, ecco. Reggiseni imbottiti. Gli uomini nei calzini. anche quello succede dentro le scarpe. Comunque, insomma, dividerli soprattutto, no? Per evitare di essere alleggerite di un botto della carta prepagata, del bancomat, della carta credito. Mi sembra un suggerimento di totale buonsenso. Poi dico comunque che la carta di credito è accettata ovunque, quindi sicuramente la carta va sempre bene. Se poi non si vuole spendere troppo, ci si può fare un budget di spesa, lo si mette in una carta prepagata, così sai che più di quello non spenderai, al massimo se la rubano più di quello non perdi, no? Però se ne hai bisogno poi per una spesa improvvisa, cioè, nel reggiseno ci sono quei $100 lì messi da parte. Ma per tutte queste problematiche, soprattutto per lo strumento elettronico di pagamento da portare con noi in vacanza, abbiamo interpellato per qualche buon consiglio Roberto Liscia, presidente di Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. È in vacanza da qualche parte, l'abbiamo disturbata, presidente? No, in questo momento sono ancora al lavoro. Eccoci qua. Allora, presidente Liscia, ci sono circuiti accettati praticamente ovunque, Mastercard, Visa, American Express non tanto in Italia, ma questo è un altro problema. In realtà non dobbiamo dare sempre per scontato che ovunque accettino la nostra carta, per cui prima di partire, intanto, il primo controllo che dobbiamo ricordarci di fare qual è? Per esempio, ieri leggevo che a Cuba, per ovviamente ritorsioni e problematiche con gli Stati Uniti, l'American Express non la accettano, per cui intanto, se decidiamo di andare là, portiamocene un'altra. Primo suggerimento, i suoi quali sono? Ma sicuramente guardare cosa succede nel paese di destinazione in termini di utilizzo prevalente da parte degli esercenti e degli ATM in termini di carte di credito o circolarità degli strumenti tipo carte di debito o carte prepagate è utile, perché il mondo non è un mondo omogeneo, ogni paese ha in qualche misura le sue abitudini e le sue regole, lo dimostra un po' l'Italia, dove le carte prepagate e le carte bancomat hanno il sopravvento rispetto alle carte di credito, cosa che in altri paesi è diverso l'utilizzo. Gli Stati Uniti, per esempio, è un paese dove le carte di credito vanno per la maggiore, tant'è che la carta di credito è nata proprio negli Stati Uniti nel 1950 per pagare i viaggi e i ristoranti, quindi le abitudini di ogni singolo paese vanno in qualche misura analizzate per decidere come comportarsi e che strumenti portare. Certo, presidente, qual è la carta migliore secondo lei da portarsi in vacanza? Bancomat, carta di credito prepagata, poi affronteremo anche il tema dell'e-commerce, perché oggi in realtà anche quasi tutti, molti appunto, prenotano la propria vacanza con il metodo fai da te e utilizzano chiaramente proprio il canale delle prenotazioni online. Quindi, che ne so, se abbiamo prenotato tutto con una Visa, in vacanza poi ci dobbiamo portare la medesima carta di credito? È un po' più rassicurante questo atteggiamento? Ma direi che oggi le carte hanno degli utilizzi abbastanza similari, perché una volta la carta di credito era nata proprio per il fatto che non si poteva avere online l'addebito diretto, perché la circolarità dei sistemi informativi e informatici non lo permettevano. Oggi in realtà tutti i sistemi informatici permettono di gestire a livello planetario sia carte di credito che carte di debito che carte prepagate. Certo. C'è però da dire che ci sono ancora delle diversità e delle difformità, nel senso che la carta di debito è sicuramente migliore se si vogliono prelevare dei contanti nei diversi bancomat o ATM nei diversi paesi. La carta prepagata a quel meccanismo psicologico di sicurezza, che è più psicologico che reale, del fatto che si consuma solo quello che si è caricato. La carta di credito naturalmente ha un grande vantaggio nel momento in cui si vogliono fare spese consistenti. Certo. E il plafond deve essere superato e quindi dipende naturalmente dal fatto che se si vuole comprare un tappeto negli Stati Uniti che vale 5.000 euro, una carta di credito è sicuramente migliore che una carta di debito. Adesso, prima di appunto soffermarci ancora più approfonditamente sul tema dello strumento di pagamento corretto per andare in vacanza, presidente Liscia, oggi in Italia qual è la carta, il tipo di carta più diffusa e perché secondo lei? Ieri c'erano dei dati molto interessanti riportati, forniti da voi peraltro, proprio dal Sole 24 Ore, che ha dedicato un'intera pagina al tema della carta prepagata. Sono più le carte di credito normali o le ricaricabili? Ma in realtà ancora una volta l'Italia si conferma per essere diversa. Come sulla telefonia mobile l'Italia ha inventato la SIM prepagata, così l'Italia è stata quella che ha sviluppato di più l'utilizzo della carta prepagata. cambiata rispetto alla carta di credito. Ciò detto, la carta più diffusa e che sta in cui la diffusione sta aumentando è la carta di debito, il famoso Bancomat, che ha superato i 40 milioni di carte in circolazione, mentre la carta di credito è vicina ai 13 milioni, le carte attive, perché le carte poi distribuite sono di più, ma addirittura la carta di credito sta diminuendo nel tempo, forse anche a causa della recessione e anche a causa del fatto che in Italia l'uso del credito nel senso più ampio del termine, cioè la possibilità di pagare a credito con la carta di credito, come succede negli Stati Uniti, non ha avuto una larghissima diffusione. È vero, è anche vero. Quindi che qua noi sì, abbiamo anche altri problemi, il fatto che per piccoli pagamenti la carta viene accettata con difficoltà, questo vale anche per il Bancomat, mentre abbiamo sempre fatto questo esempio negli Stati Uniti, anche per un caffè da Starbucks, $5, la carta la puoi tirar fuori senza alcun problema, quindi sicuramente anche questa un po' resistenza nel mondo del commercio e non solo liscia, lei lo sa, non ha certo favorito la diffusione dello strumento elettronico di pagamento. Certamente, certamente, però devo dire che la carta di debito, il Bancomat, sta aumentando le sue funzionalità, si sta integrando con circuiti internazionali, per cui è possibile utilizzare la carta di debito anche in altri paesi, sta diventando addirittura uno strumento per pagare online, per cui la carta di debito in alcuni paesi, per esempio in Danimarca, viene costantemente utilizzata per comprare online. Benissimo, peraltro, Presidente Liscia, no, la interrompo brutalmente perché dobbiamo adesso andare a sentire il giornale radio. Però torniamo, ci sono molti ascoltatori, c'è chi ci racconta che va in Africa, chi ci racconta che addirittura ha impartito delle istruzioni molto precise sull'utilizzo del denaro ai propri figli. A tra poco. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta oggi a parlare di vacanze, un tema che naturalmente ci piace molto, anche se chiaramente siamo anche vicini a quelle persone che quest'anno non se le possono permettere o quantomeno non si possono permettere un po' le mete, diciamo così, lontane, qualche volta anche un po' stravaganti, delle quali parliamo questa mattina, perché stiamo parlando del modo giusto per rapportarci con il denaro quando andiamo all'estero. Qual è il modo migliore per pagare? Chiaramente tutto dipende dalla località che si sceglie. Insieme a Roberto Liscia, presidente di Netcom, ci ha raggiunto anche Eros Candilotti della direzione network Gattinoni Mondo di Vacanze. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Perché grazie. Chiaramente ci faremo raccontare che cosa suggeriscono i tour operator, cosa è meglio fare in vacanza per quello che riguarda il denaro. Stavo pensando ai tanti genitori che devono, un po' come facevano le nostre mamme quando partivamo noi, fare le raccomandazioni ai figli e dare ai ragazzini un po' di soldi per vivere magari nella la vacanza con gli amici, con i nonni, perché mi fa sorridere Giuseppina da Modena, perché ci scrive che Ada, sua figlia, ha trascorso una settimana in vacanza senza di lei. Sì. Mi riconosco molto in Giuseppina. Un poco di contante, poi soldi in una carta prepagata. Esatto. E Ada è contenta, ha saputo gestirsi ottimamente, indipendenza e sicurezza. Insomma, sono le prove di volo dei ragazzini, anche un po' dei genitori. È vero, anzi, guarda, sai che facciamo? Cominciamo ad ipotizzare già per settembre-ottobre una bella puntata sull'educazione finanziaria dei figli e come addestrarli al meglio alla gestione del denaro, magari cominciando proprio con le prepagate, che peraltro oggi si sostituiscono anche ai doni da parte dei nonni, mentre prima ci rifilavano il cinquantone, adesso arrivano con magari il cinquantone. Un po' meno, vabbè, 50.000 lire parlavo. Allora, Candilotti, una prima domanda per lei, poi ritorniamo a Roberto Liscia, presidente di Netcom. Chiaramente Candilotti risponde per l'attività dei tour operator questa mattina, per chi invece è un sostenitore fautore delle vacanze fai da te. Ci aspettiamo da voi i vostri suggerimenti su come gestite il denaro in vacanza. 800 24 00 24 in Irlanda ho prenotato con carta di credito, racconta un ascoltatore, ma lì ho dovuto pagare quasi tutto in contanti. Credit card is okay if you need, but cash is better, racconta appunto l'ascoltatore. Allora, Candilotti, voi mediamente che cosa suggerite di fare ai clienti che prenotano la vacanza con il tour operator? È chiaro che per un viaggio in un paese europeo non abbiamo particolari problemi, no? Oggi possiamo prelevare ovunque, ma con una piccola commissione bancaria, quella ce la dobbiamo ricordare sempre, ma andando in altri luoghi, quali sono le principali raccomandazioni che esprimete? Ma innanzitutto è d'obbligo informarsi specificatamente sulla destinazione chiaramente in cui si è diretti, perché generalizzare è sempre molto molto pericoloso. Secondariamente, una buona programmazione ci può aiutare anche nel prevedere le esigenze poi che avremo durante il viaggio. Da questo punto di vista, programmare un viaggio in un'agenzia dà alcuni vantaggi, che è quello di poter prepagare molti di questi servizi, in modo di avere poi meno incombenze sul posto. Sicuramente a livello di consulenza cerchiamo sempre di consigliare nel migliore dei modi i nostri viaggiatori, e il punto di partenza è sempre lo stesso, nel senso che avere una buona dose di valuta locale è sempre un buon punto di partenza, perché poi quando si arriva a destinazione si evita il primo grosso rischio, o perlomeno il primo grosso problema, che è quello di dover cambiare dei soldi. Solitamente quando si arriva in aeroporto o in stazione i tassi di cambio sono sempre sfavorevoli, per cui diciamo che la vacanza inizia sempre col piede male, un po' storto, col piede sbagliato. Per cui partire con una minima parte perlomeno di soldi in valuta, certo, locale, o comunque con una valuta riconosciuta nel paese di destinazione, è già un buon punto, ecco, di partenza. Diciamo che i dollari ci risolvono sempre molti problemi, ma in tanti paesi chiaramente non ci servono invece a nulla. Per esempio, se dovessimo andare, che ne so, in India e ci servono le rupie, magari è chiaro che con la banca anche propria, della propria località, è bene muoversi con un discreto anticipo, no? Candilotti, quando si vanno in località per cui il cambio, ecco, diventa problematico. Sì, quando parlo di programmazione mi riferisco esattamente a questo. Alcuni viaggi magari che hanno anche una quoziente di difficoltà in termini logistici importanti vanno programmati con un certo anticipo, e questo ci permette chiaramente poi di recarci presso il nostro istituto bancario con un certo anticipo, ordinare la valuta. Un altro fattore importante è pretendere sempre, oltre a banconote di grosso taglio, anche banconote di taglio più piccolo per le prime spese quando si raggiunge la destinazione. Mm-hmm. Se si programma un viaggio con largo anticipo, questo ci permette anche magari di fare un'analisi su quello che è il tasso di cambio su un periodo medio lungo, e magari acquistare la valuta nel momento in cui il tasso è più favorevole. Ecco, quindi monitorare a priori. Sono tutte indicazioni che per i viaggi last minute sono un po' di difficile applicazione. Esatto. No, tra l'altro mi veniva un po' da sorridere pensando ai tagli più o meno grandi, no, delle banconote, se si pensa a quando si va magari a visitare anche questi paesi che hanno così un'immagine di povertà molto, molto forte, presentiamoci pure lì con la super banconota e poverini come fanno a cambiarla. Un altro suggerimento: se sul posto rimaniamo con poco contante, Candilotti, no? Ricordiamoci che anche le banche del posto, una volta che siamo un po' lontani dall'aeroporto, che è il luogo principale dove poter fare il primo cambio, le banche hanno lì i loro orari, le loro procedure, quindi informiamoci bene anche da questo punto di vista prima di partire sulla località che dobbiamo raggiungere, perché non è detto che gli sportelli bancari locali siano sempre a nostra disposizione. Assolutamente, in base anche al giorno di arrivo previsto bisogna informarsi e capire se c'è l'opportunità di prelevare o di cambiare dei soldi, oppure in base proprio al giorno di arrivo se prevenire il problema e quindi partire, certo, già con tutto pronto. Tra l'altro c'è una soluzione di cui ancora non abbiamo parlato, se vogliamo, è una soluzione vintage, nel senso che negli ultimi anni è un po' passata di moda, ma sono i travel check. Lo dicevo prima, infatti. Pensavamo che non esistessero più, invece ci sono. È una soluzione un po' demodé, ma tutto sommato è una soluzione ancora molto sicura, molto elastica, sicura dal punto di vista anche proprio della sicurezza, perché in caso di furto vengono completamente riattivati in pochi minuti, per cui per chi effettua viaggi importanti, magari lontano da casa, in zone non propriamente coperte da banche piuttosto che il travel check è ancora una soluzione assolutamente percorribile. Chissà perché avevamo pensato che io devo dirti che non li ho mai usati, per cui non lo so, probabilmente un po' per questo non mi sono mai informato. Ma a me è venuto in mente quando prima faceva riferimento alla mamma che sta pensando alla vacanza del figlio, quando ero bambino io, comunque adolescente, ancora ci mandavano le prepagate con i travel, non esistevano, certo. E quindi i travel check erano le carte prepagate di adesso. Allora, poi per chi volesse poi, sapere poi come si fa, via con sacchettini per nascondere invece, sì. Ci davano un po' di travel check, sì. E un po' di soldini. Allora, da lo vogliamo raccontare dove si mette i soldi il signore che ci ha scritto prima? Ma ne abbiamo l'abbiamo già capito tutti. Esatto, vero? Lui vuole fare 800 24 00 24. Eravamo tutti molto formosi a seconda dei soldi che ci davano a casa. Io poco, devo dire. Claudio dalla provincia di Genova e poi Antonio da Reggio Emilia. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Cosa le è successo? Ci dica. Ah, volevo segnalare un fatto che trovo abbastanza sgradevole. Sì. E i voli low cost reclamizzati a prezzi bassissimi, mm-hmm. E poi ti ritrovi una richiesta di sovrapprezzo che trovo veramente esagerata su un valore di 160 euro, mm-hmm. Se non paghi con la carta indicata da loro che è la maestro, ti chiedono 40 euro. Ah, per un circuito alternativo, Claudio. Sì, mi sembra veramente 40. Addirittura quasi contro legge. Claudio, che cosa vuole che le dica? Tra l'altro, per queste pratiche commerciali molto spesso le compagnie low cost vengono messe sotto osservazione da tutti gli organismi di controllo del mercato, ma insomma magari un commento a testa da parte dei nostri ospiti. Liscia, le risulta questa cosa? Consorzio Netcom, quindi commercio elettronico? Ma direi che con la nuova CRD, che è la nuova legge sul consumatore che è entrata in vigore dal 13 giugno, è obbligatorio la trasparenza del prezzo. Nuovo codice del consumo, sì. Nuovo codice del consumo sia a livello europeo che a livello italiano. Quindi queste difformità non dovrebbero più sussistere e fra l'altro non si possono più chiedere sovrapprezzi nell'utilizzo di strumenti di pagamento come le carte. Certo, e poi niente Claudio, qua il gioco lo facciamo poi noi, no? Come consumatori, se anche questi atteggiamenti non ci soddisfano andiamo a cercare un'altra compagnia se riteniamo che il comportamento di quella inizialmente prescelta non sia trasparente. Chi andiamo, Nicoletta? Andiamo subito a Reggio Emilia, c'è Antonio. Qua, buongiorno, sì. Antonio, benvenuto in partenza. Antonio, sì, Antonio, ci siamo. Antonio è già andato. Antonio, in partenza, buongiorno. Buongiorno, pronto? Eccola. Eccoci. Buongiorno a lei, Antonio. Andiamo. Grazie per la chiamata. Ci dica, Antonio. Il problema è questo. Io ho prenotato una settimana al mare in Romagna, io e la mia famiglia. Sì. E ho tramite internet. Sì. Mi è stata mandata la conferma, però dicendo che il pagamento sarebbe stato fatto esclusivamente con carta di credito o contanti. La somma è oltre 2.000 euro della mia spesa, io la carta di credito non ce l'ho, volendo pagare con un assegno non lo posso fare. Gli assegni in Italia funzionano ancora? Si può Antonio, pagare? Una bella domanda questa, perché effettivamente fra le varie opzioni di pagamento in Italia e all'estero che avevamo deciso un po' di approfondire, oggi c'era anche il tema dell'assegno, che invece in realtà sono proprio diventati quasi obsoleti. C'è poi anche tutta quanta la battaglia di lotta al contante. In realtà l'utilizzo dell'assegno ci permette qualche volta anche un po' di bypassare la normativa su questo, ma vorrei sentire un commento di Candilotti sul tema dell'assegno. Effettivamente andare in vacanza con questo è diventato veramente demodé, più del travel check. In questo caso bisogna fare una grossa distinzione tra una vacanza in Italia, dove comunque l'assegno in ogni caso dovrebbe ancora essere accettato, avere una sua valenza, e all'estero, dove invece in molti casi, ma anche per ragioni di sicurezza chiaramente di negozianti, degli albergatori, spesso viene proprio rifiutato. Ed in questi casi diciamo che entra proprio in gioco i travel check di cui parlavamo prima, perché parliamo a tutti gli effetti di assegni di viaggio, per cui in questo caso i negozianti, i commercianti sono assolutamente ben disposti ad accettare i travel check, mentre 9 casi su 10 rifiutano un assegno bancario. Per certo. Come può risolvere secondo lei il suo problema questo ascoltatore, visto che ormai un anticipo con un bonifico bancario per pagarsi questa vacanza lo ha fatto, la carta di credito non ce l'ha, l'assegno non lo accetta, fa dei prelievi, si deve portare questi 2.000 euro in contanti, mi pare che le alternative, oppure un altro bonifico direi, magari pagare un'altra parte di vacanza con un altro bonifico. Anche perché abbiamo il problema dei contanti, perché 2.000 euro in contanti teoricamente rappresentano un problema. Mm-mm. Allora, c'è un ascoltatore che scrive: non cambio mai i soldi, esatto. Quando arrivo ritiro al bancomat, mai problemi, sempre buoni cambi, anche in India, Bielorussia. È vero, anche perché appunto Candilotti, c'è proprio il pregiudizio che il bancomat al di fuori del confine italiano ed europeo non si possa utilizzare, invece potremmo fare anche agli sportelli ATM dei prelievi anche in località molto distanti, no? Che così ipotizziamo non ci permettono di farlo, invece non è così. Assolutamente, i sportelli ATM che non dobbiamo confonderci con l'azienda tranviaria milanese, ma sono i punti di prelievo. Bancomat a tutti gli effetti sono presenti ormai quasi ovunque, per cui quando siamo in possesso di un bancomat questo può essere utilizzabile praticamente anche all'estero. In questo caso bisogna fare un ulteriore approfondimento, perché lo stesso prelievo potrebbe essere effettuato anche con carta di credito, ma in questo caso i costi sarebbero molto molto superiori rispetto all'utilizzo del banco. Quindi conviene il banco, ma sì. Vedi? Conviene sempre il banco. Io ho più simpatia per il banco. Che bisogna dare, perché comunque c'è una differenza di costi effettivamente molto rilevante. Allora, vorrei sentire Federica, sì? Che ci chiama dalla provincia di Piacenza. Anche oggi Piacenza perché? È stata la città più gettonata. Perché a lei è capitata una cosa che è capitata anche a me. Cosa e vediamo come successo? Se l'è cavata. Federica, buongiorno. Buongiorno però, a voi. Federica, lo sa che Nicoletta non me l'aveva mai raccontato, lo scopro adesso che le è capitato la guarda, stessa cosa. Devo dire in famiglia, perché anche mia figlia la stessa cosa. Che cosa avremo, esatto. Federica? Comunque siamo un po' cugine. Federica, so. Buongiorno. Buongiorno. Avremo un fluido. Ci dica. Ma non lo so, però mi hanno detto anche che non è vero, voglio dire che si smagnetizzano le carte, quindi non lo so. Comunque io di solito andando all'estero avevo due carte di credito normali. Quest'anno ho pensato di prendere anche la carta prepagata, quindi l'ho caricata in modo da poter pagare gli alberghi, almeno gli alberghi e così. E ho portato anche le altre però per riserva, non si sa mai. Così, niente, fatto sta che sono arrivata in Germania, abbiamo pagato l'albergo con questa carta, tutto bene, con il PIN, così. Niente, quando poi io sono andata in Repubblica Ceca, quando faccio per pagare in un negozio, avevo comprato alcune cose, e niente, non funziona. Prima ho pensato di aver sbagliato il PIN, perché è la prima cosa. Così. Ci colpevolizziamo poi, subito. Ecco, poi invece mi dice no, non dà segnale. E niente, poi ho riprovato da un'altra parte, stessa cosa, a quel punto all'estero ho usato le carte di credito di prima e chiuso. Quindi insomma il primo messaggio è buona cosa che lei se ne sia portate due, no Federica? Però, perché altrimenti avrei avuto qualche problema veramente, insomma, infatti. Stare in giro. Seconda cosa è comunque, ecco, si smagnetizzano, no? Ma ecco, perché qualcuno mi ha detto che non è vero, perché io l'avevo nella borsetta, dove la tieni, voglio dire, non è che la tieni, non avevo vicino il telefono, però esatto. Nella borsa c'era anche il telefono. Ma poi tra l'altro la leggenda che si smagnetizzi vicino al telefono, è vera o no? Federica, sa che faccio? Interpello Roberto Liscia, perché chiediamogli un po' qualche chiarimento a proposito di queste misteriose destini che spesso le nostre carte prepagato di credito hanno nelle nostre borse. Sono leggende metropolitane oppure insomma scherzi dei bancomat. Essendo una banda magnetica, se c'è un campo magnetico effettivamente può influire sulla banda magnetica della carta. Gran parte delle carte stanno andando verso la chip card, che non possono smagnetizzarsi, quindi le carte col chip sono oggettivamente esenti da questo fenomeno. È molto più probabile che quello che sia avvenuto sia stato un blocco da parte dei sistemi di validazione della carta della signora, perché spesso ci sono degli algoritmi che bloccano il pagamento quando si prevede che l'azione o l'atto di acquisto sia difforme rispetto all'utilizzo della carta. Quindi è più probabile che ci sia stato un blocco da parte del server di validazione piuttosto che una smanettizzazione. Ma senta, Federica, comunque sospetti, esatto, insomma, io e Federica non quindi ci era siamo. Una tutela, diciamo, per i nostri consumatori, i nostri viaggiatori. È stato un sistema, appunto, che in qualche maniera ha voluto proteggere. Normalmente sono sistemi antifraud che automaticamente bloccano l'acquisto perché segnalano una difformità nel comportamento di utilizzo della carta. Allora, era una bella seccatura. È una bella seccatura, ribadiamo. Come si dice in braghe di tela. Portiamocene un paio, non c'è niente da fare. Magari due prepagate se non vogliamo portarci proprio la carta di credito. A proposito di carta di credito, Candilotti, stamattina, prima dell'inizio della trasmissione, ci siamo sentiti con Candilotti, abbiamo ipotizzato di quale vacanza possiamo parlare per suggerire ai nostri ascoltatori tutti gli accorgimenti che dobbiamo tenere bene in mente, appunto, per non farcela rovinare per questione di soldi. Per esempio, una meta molto apprezzata dagli italiani, Candilotti, è quella degli Stati Uniti, no? Allora, non è che una volta che partiamo carichi di carte di credito o dollari abbiamo risolto tutti i problemi che ci possono capitare. Per esempio, vogliamo noleggiare la macchina. Lo facciamo o in Italia o lo possiamo fare anche direttamente sul posto. E qua dobbiamo ricordarci di alcune cose precise. Beh, innanzitutto che al di là del costo del noleggio della macchina, le società noleggiatrici chiedono sempre una carta di credito a garanzia dell'auto stessa. E spesso questa garanzia viene prelevata direttamente dalla carta di credito. Questo crea a volte chiaramente un problema sul plafond della carta, per cui è una spesa che evidentemente il passeggero, l'utente, il viaggiatore non aveva messo in preventivo e rischia di rovinargli i piani di viaggio. Quindi, perché senza una carta di credito negli Stati Uniti diventa effettivamente difficile poi viaggiare. Per cui sicuramente il consiglio è quello di avere sicuramente più di una carta di credito, ricordando un piccolo particolare, che le carte prepagate non possono essere utilizzate come garanzia perché non hanno non sono nominative. Quindi le società di noleggio auto solamente i canali tradizionali, le carte tradizionali. Esclusivamente carte tradizionali, per cui si può poi prevedere una carta prepagata ma per le altre spese, quindi non legate al noleggio dell'auto. Ecco, un altro suggerimento che magari possiamo dare, se sono state organizzate vacanze particolarmente lunghe e magari non abbiamo pensiamo con la carta di credito risolvere tutto, in realtà magari facciamo anche un piccolo aumento del massimale, Candilotti, prima di partire, così non per volerli spendere per forza. Ci si può rivolgere direttamente alla propria banca chiedendo per quel periodo specifico un innalzamento proprio della massimale della carta, certo, che è una prassi che solitamente le banche fanno senza grandi problemi. Si può eventualmente procedere anche chiamando la banca dagli Stati Uniti in questo caso, però diciamo che prevenire è meglio che, curare, lo diciamo sempre, a cuore denari, ma vale anche per i denari. Fiorella continua a sostenere che ci sono, come lo fanno molti altri ascoltatori, che le strutture chiedono solo, ci sono molte strutture che chiedono ancora solo contanti, sono fuori legge, lo mettono anche sul loro sito web senza problemi. Fiorella, non so che dirle, ma Alicia, lei che ne pensa di questa cosa? Addirittura strutture alberghiere o ricettive che sul sito web mettono non si accettano carte o strumenti alternativi di pagamento al contante, le sembra possibile? Non è possibile, nel senso che questo ovviamente diventa più un dépliant illustrativo dell'offerta che un meccanismo di acquisto di un servizio, nel senso che al massimo è come fare un'email di prenotazione, una telefonata di prenotazione e poi l'albergatore dice: se vuoi, quando hai prenotato vieni da me e paghi. Quindi non è vietato, non è commercio elettronico, è semplicemente una prenotazione che anziché essere fatta telefonicamente è fatta via web. Allora, andrai a Ferrara. Andiamo a Bellissima Ferrara. Bellissima città. Abbiamo un minuto e mezzo di tempo per sentire. Ci chiama Paolo. Buongiorno Paolo, benvenuto. Velocissimo. Buongiorno a tutte e due, voi due fanciulle che ci accompagnate sempre. Bene. Ed è a me capitata una cosa di questo genere che mi ha fatto imbestialire con la banca. Quando il governo ci dice di pagare tutto oltre le 1000 euro con strumenti di tracciabile elettronici, esatto, tipo Bancomat, io per menaggio familiare la carta di credito la usa mia moglie e il Bancomat la uso io, sono andato a pagare un albergo a 1600 euro, non mi hanno accettato perché nonostante avere la copertura totale sull'importo, oltre le 1500 euro ho scoperto postumo una cosa, non potevo spendere, quindi non potevo fare nemmeno. Non aveva la copertura sulla carta, Paolo, no, doveva alzare il massimale lì. Il massimale al massimo è 2500 euro, però. No. Ho detto, ma se una persona. Allora, mi pare di no, Paolo. Liscia, mi pare che si possa alzare anche un pochino. Dunque, io per i miei viaggi americani l'ho alzato sempre. Sicuramente si può alzare, bisogna chiederlo alla banca e la banca lo deve accordare. Certo, esatto, cioè deve accordarlo, però ecco Paolo, probabilmente lì non vi siete capiti tra banca e le sue esigenze appunto familiari, però in realtà si può alzare. Tra l'altro Luca ci scrive un messaggio: è bene anche avvisare la banca che andiamo all'estero, altrimenti potrebbero bloccarti la carta per sicurezza, come è successo. Brava, bravi. Lo dice Luca. Lo dice Luca e noi condividiamo. Merita un libro. Brava, e anche forse l'applauso se Gianmarco ce l'ha. No, non so se poi se i nostri ospiti, visto che adesso li dobbiamo salutare in 3 secondi, Candilotti, ha ragione l'ascoltatore, avvisiamo anche la banca della nostra partenza, perché no? Mi sembra una buona prassi. Una buona indicazione di buonsenso. Grazie ad Eros Candilotti. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. A Roberto Liscia anche, che ancora è qua, ma presto andrà in vacanza anche lui. Buona giornata anche a lei. Lo spero proprio. Grazie e buon proseguimento a voi. Grazie. A perfetto. Domani. A domani a tutti e buona giornata. Cuore e denari.